per i diritti dei migranti, per i diritti di circolazione nella cosiddetta Unione Europea, sta terminando giusto ora, quindi sta ritornando verso la stazione, un corteo di circa 400 persone che ha percorso le strade della cittadina ligure, dove già sapete sono rinchiusi più che ospitati un nutrito numero di cittadini tunisini che vengono respinti dalla Francia. Quindi il corteo si è mosso per le vie della città, e giusto adesso c'è stato un momento, diciamo, di tensione quando si è provato ad arrivare al consolato francese. Appunto 400 persone, la composizione vasta, centri sociali, associazionismo, e appunto la presenza in toto dei migranti tunisini che sono appunto in questo periodo a Ventimiglia. Tra l'altro è notizia di queste ore, diciamo, che sono stati spostati dalla stazione, quindi dove si erano un po', diciamo, accampati, a un centro poco distante dal centro di Ventimiglia, ecco. Quindi questo è un po' il quadro della situazione. Dicevamo, appunto, 300-400 persone, comunque la Liguria, ma anche tutto il nord-ovest, ha un po' partecipato a questa iniziativa. Senti, ma la gente del posto come reagisce a questa presenza? E poi, insomma, i migranti riescono a ottenere il risultato di riuscire a superare il confine o vengono ributtati indietro? Allora, guarda, per adesso sono sempre stati respinti, diciamo, dalla gendarmerie francese. C'è da tenere conto che Ventimiglia è una città, tra virgolette, atipica, nel senso che è un posto di confine dove ci sono quelli che prima erano i free shop, i negozi di lusso, dei tassati, quindi anche passando per le strade un po' di gente si è chiaramente fermata, e un po' di gente comunque guardava un po' stranito. C'è da considerare che comunque le realtà di movimento e politiche di tutta questa parte della Riviera Ligure hanno risposto con la loro presenza nel corteo, ecco, nella manifestazione. Bene, senti, una situazione comunque sostanzialmente di stallo, perché poi, appunto, dalla stazione di Ventimiglia sono stati spostati a un altro centro di raccolta, diciamo. Un altro centro di raccolta noi non abbiamo ancora visto, perché è a qualche chilometro dal centro della stazione, più probabilmente più accogliente, anche se il dibattito che c'era e la questione politica della cosa è che qualcuno ha già suggerito di farlo diventare un CIE, quindi quel perverso mostro di identificazione, ma soprattutto di espulsione dei cittadini migranti. I ragazzi tunisini con i quali ho avuto modo di parlare sono un po' spauriti rispetto a questa situazione che ha del surreale. Quindi prima parcheggiati, tra virgolette, all'interno di una stazione ferroviaria, e adesso non sanno bene cosa sarà il loro futuro, diciamo. Beh, probabilmente questo luogo sarà anche un po' defilato rispetto alla stazione, quindi, insomma, meno si vedono, meno visibile, certo. meno sotto gli occhi di tutti. Da quello che raccoglievo prima come informazioni, ma sono appunto le informazioni mentre si parla passando in corteo, la struttura per il momento è stata un po' emergenziale, allestita da qualche sindacato e dalla Caritas. Appunto è lontana, sono 6 chilometri dalla stazione, quindi anche andare a vederla col corteo è impossibile per il momento. Adesso siamo appunto un po' fermi, aspettando di concludere il corteo, perché c'è questo schieramento di forze dell'ordine sui vari lati, e soprattutto a proteggere il consolato francese. Bene, senti, un'ultima cosa: hanno partecipato anche i migranti a questo corteo? Oltre assolutamente sì, uh-huh. Sia appunto i tunisini, i ragazzi tunisini che sono appena arrivati, sia altre realtà dell'associazionismo antirazzista, piuttosto che comunità varie di di migranti. Ricordiamo che 20.000 è appunto un posto di passaggio rispetto anche a chi per esempio va nel Maghreb con l'auto, quindi ci sono varie anche attività commerciali di marocchini, tunisini, e quindi c'è una comunità abbastanza numerosa che ha in parte sicuramente partecipato. Bene, allora ti ringrazio della corrispondenza, insomma seguiremo da vicino l'evolversi della situazione, come si dice. Va bene, okay. Ciao e ciao a tutti, ciao. Gli ascoltatori. Ciao.